Questa notte in Valle di Susa doveva passare nelle prime ore della mattinata, intorno alle 4:15, un treno che trasportava le scorie nucleari da Saluggia, provincia di Vercelli, alla Francia. Un treno che è particolarmente pericoloso, di cui la popolazione non era assolutamente stata avvertita. Noi abbiamo avuto la notizia e abbiamo deciso di fare una manifestazione ad uno delle stazioni della valle. La stazione scelta è stata Condove, che è al centro della valle, e abbiamo messo in piedi un presidio da mezzanotte per aspettare il passaggio del treno, in modo da rendere visibile comunque l'opposizione all'utilizzo dei territori, non solo del nostro, come corridoio per sostanze pericolose e letali, ma anche come segno di una lotta senza mediazioni contro il nucleare e il modello di sviluppo adesso connesso, sia per quanto riguarda l'elemento industriale che per quanto riguarda l'elemento militare. Eravamo una cinquantina di manifestanti e immediatamente si sono raccolte delle forze del cosiddetto ordine in numero assolutamente maggiore, spropositato rispetto al numero dei manifestanti stessi. Ne avevamo almeno tre a testa, c'erano carabinieri, poliziotti e anche la Guardia di Finanza. Le ore passavano, a un certo punto abbiamo visto, proprio poco prima dell'ora in cui avrebbe dovuto arrivare il treno, si sono aperte le sbarre del passaggio a livello presso cui eravamo. Noi eravamo nel vano del passaggio a livello ed è partita una carica assolutamente inaudita, perché in realtà con le macchine e i cellulari e questi agenti in assetto antisommossa erano stati occupati i due lati dei binari. È partita una carica che ci ha presi a tenaglia ed ha provocato, la cosa è andata avanti e poi tutti i fermati sono stati messi contro il muro dalle due parti della strada, siamo stati identificati, siamo stati perquisiti e poi ci hanno scattato lì direttamente in piena strada le fotosegnaletiche. Siamo rimasti in questa condizione mentre tutta la valle la strada era bloccata dagli autoblindo, da queste forze del disordine, erano loro a bloccare tutto quanto, e anche il passaggio dei treni era bloccato, tutto quanto fatto direttamente da loro, i treni pendolari, difatti i primi treni non sono partiti. E la cosa è andata avanti fino alle 6 del mattino, quando poi ci hanno restituito i documenti e se ne sono andati, abbiamo potuto andarcene anche noi. Prima di andarsene ci hanno salutati, diciamo così, col grido "sarà dura", quasi a prometterci che ci rivedremo appunto a Chiomonte, dove sarà il prossimo importantissimo scontro per impedire la costruzione dell'alta velocità. Due dei manifestanti erano stati portati via e sono stati prima fermati e adesso abbiamo saputo che sono stati arrestati e quindi instradati alle Vallette. Una violenza e soprattutto un'arroganza davvero inaudite, no? C'è un escalation rispetto a quella che è la repressione e si sente in modo assolutamente palpabile. Evidentemente l'oggetto del contendere è importante e per noi manifestare contro il nucleare è importante anche perché è una tradizione comunque della nostra valle. Parecchie dei comuni della valle si sono fregiati del simbolo della denuclearizzazione. Noi proprio anche sul tema del no al nucleare avevamo trovato rapporti con realtà francesi che combattono contro il nucleare, e con loro eravamo riusciti a fermare il mega elettrodotto a 380.000 volt Grandil Moncenisio Piossasco, che avrebbe instradato in Italia l'energia elettrica prodotta dalle centrali nucleari francesi, nelle quali oltretutto anche l'Enel italiana, nonostante il referendum che aveva detto il no al nucleare, aveva delle quote ed ne era comproprietaria. È una tradizione, noi in quell'occasione ci eravamo opposti alla distruzione paesaggistica della valle, perché questi enormi mega elettrodotti sono davvero una cosa brutta da vedere. Avevamo anche puntato sulla questione della pericolosità per la salute dei campi elettromagnetici, ma anche su un no deciso al nucleare. Del resto, negli anni in cui attraverso il referendum il nucleare fu cacciato dall'Italia, noi come Valle di Susa, con uno striscione, la Valle di Susa contro il nucleare, quindi eravamo a metà degli anni Ottanta, avevamo partecipato alla grandissima, la prima grande marcia contro il nucleare, quella dal proprio verso la centrale nucleare di Trino, che allora ancora funzionava, la Casale Trino, erano stati 30 chilometri a piedi, con tutto un popolo comunque che diceva no al nucleare. Allora la nostra tradizione viene da lontano e desideriamo essere fedeli a tutto questo. Questo era anche il senso del piccolo presidio che abbiamo fatto, e abbiamo visto dall'altra parte davvero arroganza e violenza assolutamente inaudita. Va bene, ti ringrazio. Naturalmente, diciamo, se qualsiasi cosa aggiornamenti è, se non vi sentite richiamate, chiamate voi, tanto ce l'ha il numero della RAI. D'accordo. Ok. Grazie. Va bene, ti ringrazio. Ciao. Buona lotta. Ciao.